Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Chiaramente anche oggi la puntata durerà dal punto di vista del programma fino alle 18 e poi dalle 18 faremo un aggiornamento dedicato chiaramente non solo alle notizie di carattere economico, sull'andamento del coronavirus. Dunque, perché si fa l'aggiornamento? Ora, a me sembra, anche qui la precauzione e il condizionale d'obbligo, la giornata di oggi è sicuramente più tranquilla rispetto a quella di ieri. Intanto, parlando in maniera un po' brutale, i decessi per ora sono quelli che avevamo già visto ieri, e va detto che sono tutte persone che avevano già uno stato di salute compromesso. Lo dico non per minimizzare, ma neanche per eccedere nell'enfasi. Ho visto che oggi sia il presidente della regione Lombardia Fontana ha cercato di ricondurre a un altro tipo di ragionamento, così come anche Ricciardi. È ovvio che il danno, visto che parliamo di economia, dal punto di vista del turismo o dell'immagine, per meglio dire, dell'Italia all'estero, è completamente in atto, in corso. Non riesco neanche a fare l'aggiornamento dei casi in cui vengono bloccati italiani, soprattutto se vengono dalla Lombardia e Veneto, le cancellazioni delle prenotazioni, e ne parleremo in apertura. C'è stato anche l'incontro del ministro Patuanelli con le associazioni di categoria, Confindustria, Confesercenti, Confcommercio, e il governo si sta muovendo per un insieme di misure sui settori più colpiti. Qualcuno continua a scrivermi: ma ci stiamo facendo male da soli? Allora, è uno degli elementi di polemica. È ovvio che l'Italia ha avuto, tra virgolette, la sfortuna che vi è stato il focolaio nell'ospedale di Codogno. E questo, come ricordavamo anche ieri, è un ospedale, può diventare una bomba batteriologica, cosa che puntualmente è avvenuta, quindi il grande numero. Ma è anche vero che se andiamo a vedere il numero di tamponi, di test che vengono fatti, noi siamo almeno a 10 volte la Francia e 10 volte la Germania. Ora cerchiamo di capire anche lì, ma ci sono molti pazienti che risultano falsi positivi e poi in realtà sono veri negativi. In molti casi le misure prese, se non vi sono altri sintomi, temperatura, problemi bronchiali, respiratori, gli viene detto semplicemente di stare a casa. Mi sembra di poter dire che al momento, e spero di non essere mai smentito, più che il danno di carattere medico, e quindi il numero di vittime e quello che sta capitando, il danno che ci stiamo portando a casa in maniera certa è quello di carattere economico. E uno può anche dire: ma ci mancherebbe, l'economia viene dopo rispetto alla prevenzione. Perfetto, basta che sia veramente un elemento solo di prevenzione. Poi vabbè, alcuni stanno scherzando perché qua si stanno invertendo i ruoli. Anche ieri abbiamo fatto la battuta, fra un po' apparranno i cartelli: non si affitta ai settentrionali. Però al di là di questo, attenzione, perché è molto sottile il confine tra elementi di precauzione, misure necessarie di precauzione, e dare un'immagine di un panico eccessivo su questo. Poi c'è chi fa un ragionamento, lo stesso Ricciardi, dicendo: attenzione, aver bloccato i voli della Cina non ha permesso di tracciare tutti quelli che poi sono arrivati in Italia dalla Cina facendo altri scali, Francoforte, Londra, Parigi, mentre in altri paesi, avendo lasciato aperti i voli della Cina, tutti quelli venivano tracciati in automatico, tutti quelli in arrivo appunto dalla Cina, mentre noi abbiamo creato anche la possibilità che alcuni arrivassero da altri paesi. Devo dire che però in questo momento il tema cinese è secondario, perché noi stiamo parlando di infezioni di carattere secondario e terziario, cioè non direttamente contagiati in Cina. Dunque, l'Italia è l'unico paese europeo con morti, con un numero di contagiati maggiore di tutti gli altri paesi? Non è un'interpretazione. Sì, siamo d'accordo, per carità, però faccio notare che il numero di test che noi stiamo facendo è 10 volte superiore a quello degli altri paesi, allora o gli altri paesi sono tutti in sicurezza o stanno facendo meno test. Comunque non sto dicendo che non si debbano mettere in atto le misure, sto dicendo che però anche essere molto realistici con le misure aiuta. Perché? Perché un conto è mantenere questa situazione per una settimana, scuole chiuse, bar chiusi dopo le 18, tutti gli uffici che possono chiusi, altra cosa è continuare per un tempo più lungo, perché da questo punto di vista più rapido sarà il tempo in cui l'Italia riuscirà a dare garanzie verso l'estero, più riusciremo anche a contenere il danno economico, che non sto mettendo in primo piano, però non posso neanche metterlo in ultimo piano, non metterlo proprio, per cui probabilmente c'è stato, anche vista la dinamica, cioè giovedì scorso non c'era nulla, venerdì abbiamo passato una giornata d'inferno con i casi che aumentavano, con lo scoppio del caso, diciamo, della bomba batteriologica a Codogno. È chiaro che c'è stata anche una reazione molto forte. Adesso si tratta di capire come tutelare, avere tutte le aree senza dare l'impressione che praticamente stiamo isolando un pezzo del paese che da solo rappresenta il 20% del PIL. I morti non ci sono stati negli altri stati. Sì, vediamo anche di capire. Certo che quando... Io non ho detto che il contagio non ci sia stato nell'ospedale e abbia colpito pazienti lì ricoverati che erano già in situazioni critiche. Andiamo però a vedere, insomma, qual è l'incidenza e la mortalità di queste cose. Comunque è presto per dirlo adesso. Dico semplicemente, prima riusciremo a dimostrare che la situazione, anche il tasso di crescita dei contagiati, per fortuna sta rallentando, aumenta il numero assoluto, ma è la progressione che mi interessa. Cioè, si era passati da 15 di venerdì a 50 il sabato, a 120, 130 la domenica. Obiettivamente sta un po' rallentando la progressione percentuale. Alcuni mi scrivono la differenza rispetto a Francia e Germania è che non li stiamo cercando. Io ho la sensazione che sia anche così, cioè che andiamo a fare tantissimi tamponi, becchiamo anche o dei positivi, dei finti positivi, o comunque delle persone che sono venute a contatto con il coronavirus pur stando in maniera assolutamente, pur stando bene. E non sto minimizzando, ma non posso neanche avallare. Ieri abbiamo criticato chi saccheggiava i supermercati con la spesa, l'acqua, il latte, così. Delle volte, insomma, non si può dire che è deceduta una ottantenne in dialisi. No, non era in dialisi. Comunque sì, tutte le persone decedute purtroppo avevano già una situazione medica bella compromessa, lo dico. Però andiamo avanti, chiaramente navighiamo a vista. Sì, lo so che è una normale influenza ogni anno in Italia causa tra i 250 e i 300 morti, però in questo momento è chiaro che poi l'opinione pubblica è preoccupata, perché mentre dell'influenza tu hai i vaccini, in alcuni casi non riesci, però è una cosa a cui siamo abituati, soprattutto nel centro-nord. In realtà qui non sappiamo ancora l'esito finale, c'è molti dubbi e incertezze. Dunque, no, non dico io che ci sono molti falsi positivi, l'hanno detto le autorità stesse, cioè che poi quando vai a fare il controllo più dettagliato ti accorgi che non c'è. Comunque, si naviga a vista, speriamo di arrivare in fine settimana con dei numeri più sotto controllo e una situazione che poi le autorità locali e regionali e anche comunali potranno definire migliore. Certo che tutto non si rientrerà né dal punto di vista dell'economia, quindi cancellazione di viaggi, gite scolastiche, ormai sono state cancellate fino a metà marzo, sono 320 milioni di euro in meno, stima il mondo del turismo. È ovvio che non è che questo riporterà in un secondo la situazione della normalità, anche se si decidesse che dal lunedì prossimo le scuole riaprono, io immagino già alcuni genitori non mando il figlio a scuola, però un minimo di percorso di normalità, se la situazione va avanti così, bisognerà trovarlo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Vediamo le borse. Allora, rispetto a ieri sono in calo, non così pesante come ieri. Parigi perde il 2%, Francoforte l'1,80%, Milano non è la peggiore, anzi Londra perde l'1,85%, Milano perde l'1,30%. Tra l'altro c'era stato un tentativo di rimbalzo questa mattina, perdite per ora più contenute rispetto a quelle di ieri. Per quello che riguarda i titoli c'è anche qualcosa di positivo: Case New Holland più 3%, Nexi più 1,40%, Ferragamo più 1,1%, Recordati più 0,90%, negative invece di Assoni meno 4,20%, Banco BPM meno 4%, Buzzi meno 3,30%, come Amplifon, Enel meno 2,80%, Fineco meno 2,60%, Leonardo meno 2,5%, Prismia meno 2%, Intesa meno 1,90%, come Generali e Unicredit, e Pirelli, Poste meno 1,60% come Unipol ed Atlantia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Dicevo, andiamo rapidamente con le notizie in breve. Dunque, vabbè, Trump ha chiesto 2 miliardi e mezzo al Congresso per combattere il coronavirus. E si fa più vicina alla possibilità di avere un vaccino contro il Covid-19. L'azienda biotech americana Moderna infatti ha annunciato di aver spedito il primo lotto del vaccino sperimentale all'Istituto Nazionale delle Allergie e Malattie Infettive. Poi i cinesi, va ben tutto, però mi fa impazzire che dalla Cina il quotidiano del Popolo scriva che l'Italia ha avuto una risposta lenta. Dico, in un paese che ci ha messo un mese a ammettere che c'era il coronavirus, ma abbiate almeno la decenza di star zitti, lo dico con massima cinese, ma per favore, non sappiamo ancora cosa sta succedendo nel Wuhan e che misure avete preso. Adesso sentire dire che noi abbiamo avuto una risposta lenta, prima ci criticavate perché eravamo l'unico paese ad aver chiuso i voli dalla Cina, vabbè. E invece mi fido di più dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che per voce di Walter Ricciardi, che da oggi è consulente anche del Ministro della Salute Speranza, dice le misure che sono state prese vanno nella direzione giusta. È molto importante che il paese si muova unito per fronteggiare questi due focolai epidemici, che la vera differenza dell'Italia rispetto agli altri posti, cioè mentre in Francia e in Germania i casi sono molto sparsi, da noi c'è stato soprattutto il focolaio, diciamo, di Codogno, non solo l'ospedale, ma a partire dall'ospedale, che è proprio un focolaio. Sì, qualcuno mi scrive dalle Canarie, cancellati tutti i voli in arrivo dall'Italia. In Francia e in Germania i tamponi li fanno solo a chi ha sintomi più importanti, non basta la febbre, sono d'accordo. E ancora vedo, sì, secondo me, sì, Zelanti, sapete, abbiamo beccato un focolaio, abbiamo fatto quello che bisognava fare, vorrei capire cosa succederebbe negli altri paesi. Va bene, dunque, ancora sul coronavirus, la Direzione Generale del Parlamento Europeo dice che non vi possono essere discriminazioni verso gli italiani nel Parlamento Europeo, però sono misure del personale che è stato in Italia. Ai militari americani presenti in Italia non è consentito viaggiare nelle zone colpite dal coronavirus. La Gran Bretagna ha chiesto autoisolamento per chi arriva dal nord Italia, cioè a nord di Pisa, Firenze e Rimini, presentando anche sintomi leggeri, chiede l'autoisolamento. La Bulgaria nera ha sospeso i voli su Milano, il Kuwait ha vietato i voli da e per l'Italia, la Giordania ha vietato l'ingresso completo dall'Italia, l'aeroporto di Praga fa screening dei voli dall'Italia, i controlli dei treni francesi scendono al confine con l'Italia, escluse l'ipotesi della chiusura del Brennero per quello che riguarda il Tirolo, e il Presidente del Consiglio Conte alla Protezione Civile ha detto, poi ascolteremo alcuni passaggi, inaccettabili le limitazioni degli italiani, e ai paesi stranieri ha detto attenzione, gli italiani possono circolare, l'Italia grazie al suo sistema sanitario d'eccellenza e a una politica sanitaria di massima tutela può mandare i suoi cittadini in giro tranquillamente. E nel pomeriggio ci sarà un importante anche incontro con i rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli altri ministri della sanità europei. Sarà un'importante occasione per veicolare questo messaggio. Il sistema sanitario nazionale italiano è tra i più efficienti al mondo. La nostra politica sanitaria è tra le più avvedute, tra le più rigorose. Quindi i controlli che noi stiamo facendo, la terapia, come dire, d'impatto, d'urto che stiamo effettuando, garantisce tutti nel mondo. I nostri cittadini che partiranno loro sicuri e potranno offrire sicurezza a tutti quanti. Allora, mi stanno scrivendo alcuni medici, infettivologi, che dicono sì, il problema non è la mortalità, neanche la gravità, visto che è 10, forse 20 volte più serio dell'influenza normale, ma è il fatto che sia molto più infettivo dell'influenza, cioè si trasmette con enorme facilità, e quindi se le persone non si creano misure di contenimento, si rischia non solo l'intasamento degli ospedali, ma anche una propagazione ancora più forte dentro gli ospedali, quindi si chiede appunto l'autocontenimento. Vabbè, andiamo avanti con il resto, per quello che riguarda le notizie. Lo spread è tornato sotto i 150 punti, adesso arriveremo con Federturismo a fare il calcolo, anzi facciamolo subito il calcolo del danno, perché le cancellazioni delle gite sono già danno acquisito, le cancellazioni delle prenotazioni sono già delle prossime settimane sono già danno acquisito. Quello che a me preoccupa molto è la cancellazione di prenotazioni di eventi, anche nel mese di maggio, giugno, luglio. Ieri la numero uno della Fiavet, delle agenzie di viaggio italiane, ci diceva di cancellazioni anche degli italiani stessi per viaggi in Australia, piuttosto che stranieri che devono venire in Italia a luglio, italiani che volevano volare in Sicilia a luglio, cioè qui, ecco, questo mi sembra oggettivamente. Poi dire che sono sorpreso, no, perché ricordo benissimo cosa capitò con l'acqua alta a Venezia, che a novembre venivano cancellate prenotazioni per aprile per l'acqua alta, cioè è ovvio che quando tu entri in questa sindrome. Ma ricordatevi cosa successe anche sulle prenotazioni durante l'ISIS, che non riguardò per fortuna l'Italia. Venivano cancellate prenotazioni sulla Costa d'Azzurra per gli attentati, eppure lì il ragionamento era del tutto emotivo. Sapete, sul turismo il problema è che siccome uno non è obbligato ad andare in spiaggia o in montagna in Italia, hai molte possibilità di scelta, molte opzioni. Non è diverso quando viaggi per lavoro e di mezzo ci sono gli affari. Comunque andiamo su questo, solo una breve prima di arrivare a questo. SIDE concordato all'assemblea degli azionisti, degli obbligazionisti di Astaldi, e quindi il voto favorevole per la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale. Lo si legge appunto in una nota, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora andiamo sulla parte economica, per quello che riusciamo a computare, a calcolare adesso. Allora, intanto il vertice della Protezione Civile, dove è intervenuto anche il premier Giuseppe Conte, e poi l'incontro del Ministro dello Sviluppo Economico. Partiamo dal vertice della Protezione Civile. Ha detto il premier Conte, l'Italia uscirà a testa alta, ma lo ascolteremo nella seconda parte del programma. Il Ministro per Lavoro Catalfo invece, Nunzia Catalfo, ha detto che sono pronte le norme per tutelare le imprese e i lavoratori nella zona rossa. Ascoltiamo la Catalfo. Sulla questione coronavirus noi stiamo preparando, abbiamo già preparato delle norme che vanno a tutela dei lavoratori delle imprese che si trovano nella cosiddetta zona rossa. dal rinvio del versamento dei contributi, quindi la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a ampliamento, quindi non tenendo conto delle percentuali dei mesi usufruiti della cassa integrazione ordinaria o di altri strumenti di ammortizzatori sociali come fondo di integrazione salariale e altro, a strumenti a tutela di lavoratori e imprese che non sono coperti da ammortizzatori sociali, quindi un nuovo ammortizzatore sociale, un'altra tipologia di ammortizzatore sociale come cassa in deroga che possa andare a tutelare quel tipo di lavoratore. Allora, sempre sull'impatto economico, c'è stato poi l'incontro, dicevo, del ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli con le associazioni di categoria Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza Cooperative e Confapi. Lo ha seguito la nostra Teresa Trillò a Roma. Buonasera Teresa. Buonasera Sebastiano, sì, qui l'incontro è ancora in corso, è l'incontro tra il ministro e le associazioni delle imprese che sono qui questo pomeriggio per fare il punto sull'impatto del coronavirus sulle aziende del paese, perché sono molti settori in sofferenza. Confindustria, ha spiegato il direttore generale Marcella Panucci arrivando, si aspetta delle misure per i settori più colpiti, che oggi sono turismo, fiere, trasporti, logistica e attività culturali. Ma sentiamo che cosa ha detto Marcella Panucci arrivando. Noi ci aspettiamo alcune misure urgenti per affrontare l'emergenza nelle zone rosse, quindi che si affianchino a quelle assunte ieri dal Ministero delle Finanze, quindi rinvio, non so, dei termini per i pagamenti previdenziali contributivi, rate dei mutui, pagamenti delle utenze elettriche, eccetera. Ci aspettiamo alcune misure che vadano a sostenere quelle imprese che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza, che non siano localizzate necessariamente all'interno delle zone rosse, ma che abbiano per esempio lavoratori a casa perché residenti nelle zone rosse, oppure facciano parte delle catene del valore, quindi di fornitura delle imprese che sono bloccate per l'emergenza. Ci aspettiamo provvedimenti a sostegno dei settori più colpiti, che sono ad oggi turismo, fiere, trasporti, logistiche e anche attività culturali. Per quel che riguarda il turismo in particolare, stiamo sperimentando veramente cancellazioni su cancellazioni di prenotazioni, nonché mancate prenotazioni. Idem per i trasporti, idem per tutte le attività culturali e le fiere, perché sono oggetto di ordinanze che sono state adottate nelle ultime settimane, quindi a partire da Milano, con dei danni anche molto rilevanti sia per le organizzazioni fieristiche che per le imprese espositrici. Oggi noi vogliamo confrontarci con il Ministero dello Sviluppo Economico perché si diano delle risposte veloci. Ovviamente c'è un tema lavoro, quindi ammortizzatori sociali, molto rilevante, su cui ci sono state già delle prime indicazioni del Ministero del Lavoro e adesso vanno, diciamo, completate con misure ulteriori. Quanto ammontano le risorse necessarie da mettere in campo e avete fatto anche una stima? No, è difficile stimarlo al momento perché ovviamente dipende dall'estensione dei provvedimenti, quindi zone rosse, zone chiamiamole gialle e poi tutte le altre zone, e oggi mi pare che il Presidente Conte abbia fatto riferimento a questa possibile tripartizione che ci sembra corretta. Difficile stimare. Noi stiamo facendo in collaborazione con le nostre associazioni di territorio e di settore un'analisi dell'impatto in termini di chiusure di stabilimento, danni diretti, danni indiretti, eccetera, e quindi nei prossimi giorni potremo cercare di dare una prima stima, ma è ovvio che parliamo di stime che sono poi da aggiornare giorno per giorno. Anche per Confcommercio il turismo è un settore molto a rischio, hanno fatto delle stime approssimative tra marzo e maggio, sono a rischio 27 milioni e 700 mila presenze, dice Confcommercio, con una riduzione di spese di 2,65 miliardi. Confcommercio parla anche di un impatto sul PIL tra 5 e 7 miliardi, ossia lo 0,3 e lo 0,4%, e se l'emergenza si protrarrà fino ad aprile-maggio. Ma sentiamo cosa ha detto Taranto, il direttore generale di Confcommercio. Le linee prioritarie di intervento sono chiare: la proroga dei termini fiscali e contributivi la moratoria dei mutui bancari e l'attivazione del Fondo Centrale di Garanzia, l'utilizzazione degli strumenti di cassa integrazione del Fondo di Integrazione Salariale anche in favore dei dipendenti delle micro e piccole imprese, un sistema di indennità per i lavoratori autonomi e la mobilitazione dei piani promozionali export e della diplomazia commerciale a tutela del turismo e del Made in Italy. Infine, per quello che riguarda il sistema dei trasporti, alcune misure specifiche, dalla sospensione delle tasse di ancoraggio al potenziamento della sanità marittima e alla proroga dei termini per i processi di formazione e aggiornamento di legge nel sistema dell'autotrasporto. Avete stimato le risorse necessarie per questo intervento? La stima, diciamo, non è facile, naturalmente si tratta di modularla in relazione all'ampiezza della crisi. Da questo punto di vista evidentemente bisogna tener conto del fatto che se la crisi dovesse protrarsi oltre il prossimo mese di maggio o giugno, l'impatto sul PIL potrebbe essere stimato nell'ordine di 3-4 decimi di punto, cioè 3-5-7 miliardi di euro. Naturalmente quindi le risorse da mettere in campo sono proporzionali, diciamo, all'incidenza settoriale e territoriale che la crisi potrebbe assumere. Un dato tra tutti è per il turismo: tra marzo e maggio sono a rischio oltre 21 milioni di presenze, con una riduzione di spesa nell'ordine dei 2,7 miliardi di euro. E arriveremo anche al turismo, per quello che riguarda la vicepresidente di Federturismo Confindustria, cioè 2,7 miliardi di euro e una stima complessiva dello 0,5% del PIL ad ora, che porterebbe l'Italia in recessione a meno che non ci sia un forte rimbalzo nei mesi successivi. Ecco perché il tempo è fondamentale, visto che le stime su quest'anno erano di una crescita non oltre lo 0,2%. Ringrazio per averci aggiunto in collegamento Andrea Beltratti, che insegna economia politica all'Università Bocconi di Milano. Buonasera, professore. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Le chiedo un attimo di pazienza, abbiamo il metodo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Dunque, mi scrivono molti ascoltatori anche ieri che dovevano andare in Germania per visitare i clienti, gli chiamano, gli dicono cortesemente di non farsi vedere, pur non avendo loro mai soggiornato nelle aree a rischio tra Milano e Novara, peraltro società con cui collaborano da anni, e questo renderà enormemente difficile capire il danno economico. Perché? Lo dico perché è chiaro che se il mancato incontro con i clienti viene posticipato di 2 settimane, il danno economico quasi non c'è. Se invece salta l'accordo commerciale, ti porti a casa danno economico. Sulle fiere, molti mi chiedono, sembra che il Salone del Mobile voglia rinviare a giugno. Adesso non lo so, non ho nessuna notizia ufficiale. Inviterei tutti a un po' di prudenza. È chiaro che con una fiera, quando l'espositore deve pagare lo spazio, gli alberghi vengono prenotati in largo anticipo, proprio perché mancano le stanze, i voli pure. Non è come, diciamo, venire a Firenze o a Venezia o a Roma, che puoi dire magari vengo il mese prossimo a farmi il weekend, non questo. Però, non lo so, visto che il salone era previsto per metà aprile e anche Vinitaly, io inviterei un po' di prudenza prima di cancellare una fiera che si tiene tra, non dico 2 mesi, ma 1 mese e mezzo. Perché quello è un danno che ti porti a casa, certo. Poi mi dicono la riprogrammeranno a giugno. Vabbè, magari si scopre che a giugno il salone si può fare uguale, che si può fare uguale in Italy, che tutta l'attività. Vedo anche che sulle scuole l'ipotesi è di far restare a scuola i ragazzi delle regioni Lombardia, in primo luogo, che hanno le scuole chiuse, a Milano, scusatemi, di fare allungare il periodo di una settimana a giugno. Per carità, il tempo è fondamentale per capire quanto puoi recuperare e quanto invece hai perso per l'anno. Poi ci sono casi anche interessanti. Il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, segnala che in tutta la Versilia stanno arrivando famiglie lombarde ed emiliane che tornano e riaprono le seconde case o fanno prenotazione negli alberghi, avendo le scuole chiuse e magari non avevano intenzione di andare in montagna. E hanno deciso di spostarsi. Sono gli albergatori e i cittadini a segnalare l'arrivo. Nessun problema di chi viene dalle zone rosse, anche perché non ti puoi uscire. Quindi. Dunque, 2 gli italiani contagiati dal coronavirus a Tenerife, positiva anche la moglie del medico contagiato, e va bene, si fa per dire. Il Gallera ha appena parlato, sono stati 1800 tamponi fatti in base ai sintomi, di cui 240 casi positivi per quello che riguarda la Lombardia. Ancora sto guardando altri dati. Allora, Andrea Beltratti, è difficilissimo, un attimo che sto leggendo un'altra notizia, scusami. Dunque, la nuova ordinanza, la bozza che ha preso, di cui preso visione l'ANSA, la nuova ordinanza dovrebbe dire che tutti coloro che sono stati negli ultimi 15 giorni nelle zone focolaio italiane, quindi nei 10 comuni lombardi e a Vo' Euganeo, devono comunicare alla ASL, ma io sapevo che era già così, almeno, e che risponde alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario nella propria abitazione, di chi è stato negli ultimi 15 giorni in queste aree. Vabbè, sto guardando, le notizie stanno arrivando chiaramente una dopo l'altra. Comunque, Beltratti, dal punto di vista economico, il vero problema è la variabile temporale per capire quanto si recupererà, perché qua stiamo ragionando di mezzo punto percentuale di PIL, 2 miliardi e 400 milioni di danni nel turismo. È quello il punto? Sì, sì, sì, certo, quello è un punto, ma a parte, diciamo, il danno temporale, quindi quanto ci vuole, anche, diciamo, una interruzione anche solo di poche settimane presente dal commercio internazionale e così via, dato che le value chain, appunto, globali, di cui si parlava nel seguito precedente, sono molto ampie, molto rapide, molto competitive, il rischio è che poi qualche azienda sia in un certo modo sostituita nella value chain da aziende di altri paesi, e quindi che il danno possa essere poi veramente di lungo periodo. Quindi c'è un tema che, appunto, prima facciamo a gestire tutto quanto la situazione e meno danni possiamo avere per il lungo periodo. A me viene in mente il terremoto nell'Emilia Romagna che colpì il distretto fondamentale del biomedicale, perché lì pure si temeva tantissimo che noi fornivamo tantissime aziende, forniamo tantissime aziende in Germania. Devo dire che alla fine poi il danno non c'è stato, cioè, e lì eravamo di fronte a un terremoto. Lo dico perché a Codogno ci sono almeno 80 imprese, molte lavorano nella meccanica, leggevo appunto che stanno comunque cercando di mantenere attiva la linea produttiva lavorando con le mascherine, però lei fa bene a notare che più lungo è il periodo, più la tentazione è di sostituirti, vedi tutti gli scambi commerciali. In questo momento, secondo lei, il danno già che uno si è portato a casa è soprattutto nel turismo, è incluso anche quello fieristico? Sì, diciamo, un danno, un valore attuale di danni c'è già. Detto questo, io credo che se noi riuscissimo in qualche giorno ad avere un assetto stabile, che vuol dire imparare a convivere con il virus, più che pensare o sperare che il virus si possa arrestare completamente, se non ci possono essere più morti, questo sarebbe altamente auspicabile e in un certo senso molto cinico fare un ragionamento puramente economico, ricordando le tante persone che hanno premi di salute. Però qua di economia stiamo parlando, quindi io credo che il tema in qualsiasi società sia quello di saper convivere con dei fattori di rischio, ricordando che, appunto, il rischio deve essere in qualche modo gestito e sopportato, non esiste attività senza rischio. Quindi prima riusciamo a limitare al massimo il rischio, che è quello che tutti quanti stanno cercando di fare, ma anche psicologicamente tutti quanti impariamo prima a convivere con il rischio e prima riusciamo a rimetterci in piedi, a limitare i danni che se no possono essere, appunto, più permanenti per il lungo periodo. Detto questo, il tessuto imprenditoriale italiano di piccole e medie imprese è straordinario, i distretti sono straordinari, sono le aree economiche del paese in cui il livello di produzione oggi è superiore addirittura a quello del 2007, quindi sono aree con occupazione, grandi risorse finanziarie, visione, capacità di innovazione tecnologica e che possono interagire con grandi aziende che consentono di integrare la conoscenza internazionale e trasmettere le sollecitazioni ad un tessuto industriale che forse senza uguali nel mondo, questo ricordiamocelo sempre. Detto questo, possiamo prendere appunto anche i campioni del mondo e sottoporli a stress e prima o poi qualche danno ci sarà. Sì, molti mi fanno notare che se nel 2003 vi fossero stato WhatsApp, che non esisteva, WhatsApp del 2009 all'inizio, tutti i social, l'attenzione mediatica, i tamponi, anche la SARS avrebbe creato un panico uguale. Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Devo dire però una cosa, così rispondo anche che mi dice dei giornalisti. Allora, da un lato, per carità, io non rappresento i giornalisti italiani, ci sono stati sicuramente dei casi di eccesso di enfasi, spettacolarizzazione, sensazionalismo, cinismo. Però in generale era difficile, lo dico con, diciamo, in maniera quasi ironica, non parlare del caso. Noi abbiamo cercato di parlare del coronavirus per settimane solo con spazi limitati, perché riguardava il danno economico dei mancati arrivi dalla Cina, componentistica e turismo d'affari e l'attività di business delle nostre imprese lì presenti. Ma senza nessun grande allarmismo, abbiamo avuto molti collegamenti con Saro Capozzi a Shanghai, che ci raccontava che la vita andava avanti. Il problema è che se, diciamo, isolano 11 comuni, chiudono i bar alle 18, sospendono le scuole per una settimana, chiedono alla popolazione di non muoversi, cioè è difficile dire no ragazzi è tutto normale. Io non lo dico, ma bastava girare ieri dalle 18 in poi per Milano per avere la sensazione che o fosse Ferragosto un po' più freddo del solito, con un clima diverso, o ci fosse qualcosa di stranissimo in giro nelle aree maggiore, diciamo, frequentazione anche turistica, dove, diciamo, in questa città e non solo l'aperitivo è quasi un rito, perché era tutto spento, il traffico era rarefatto, benissimo, si arriva a casa, si parcheggia in un secondo, però è difficile non parlare e far finta che tutto sia normale. Detto questo, resti con noi Beltratti, perché ci ha raggiunto in collegamento anche Marina Lalli, vicepresidente di Federturismo Confindustria. Buonasera. Buonasera a voi. Le chiedo un minuto di pazienza dopo il traffico. Focus Economia. Allora, sto cercando di fare, era un po' difficile il punto. Dunque, Marina Lalli, voi purtroppo siete il settore, parlo del turismo d'affari, turismo anche, che il danno l'ha già beccato. Dicevo, se cancelli una fiera, il Mido la riprogrammano, forse il Salone, però le gite scolastiche sono 340 milioni, quelle le avete già portato a casa. A parte che anche dalla Liguria segnalano l'arrivo di molti lombardi che riaprono le seconde case, e va bene. Ho capito, però la seconda casa crea poco giro d'affari, però insomma, quali sono le vostre stime e soprattutto anche per lei la variabile temporale? Ieri la Fiat ci diceva, gli agenti di viaggio, che ricevono disdette anche per il periodo di agosto, luglio. Purtroppo è vero, devo confermarlo, cioè la gente ormai è stata assalita da questo panico ingiustificabile e quindi sta facendo telefonate per disdire le vacanze estive, tra l'altro in territori che neanche sono quelli della zona rossa, ammesso che ci fosse una ragione per disdire nella zona rossa. E quindi veramente la situazione è sfuggita dal controllo. La cosa che fa più male è che gran parte di queste telefonate non sono di italiani, ma sono di stranieri, che quindi hanno proprio deciso di sostituire la meta Italia con un'altra meta per le loro vacanze estive. Questo è il problema, questo perché una volta che tu vai in Spagna o in Grecia e prenoti, non è che poi giù a maggio, se noi ti diciamo che la situazione è assolutamente presa sotto controllo, ritorni in Italia, no? Non è... Esatto, ormai vuol dire che questa è una persona, un turista perso, e siccome queste telefonate in questi giorni sono state migliaia ovunque, significa che noi stiamo perdendo una infinità di turisti. E questo è un problema che è venuto fuori proprio da queste decisioni e dal fatto che noi, per carità, magari anche in modo molto responsabile, abbiamo deciso di andare alla caccia di chi ha il problema e non aspettare che arrivasse in ospedale. Questa è una nostra legittima scelta. Quello che forse avremmo dovuto pensare di fare in modo diverso è quello di non comunicare tutti i tamponi che facevamo, facendo intendere che questi erano tutti potenziali malati, ma magari comunicare sono quelli che erano effettivamente malati o addirittura le povere persone che erano morte in questa situazione, perché a quel punto i numeri sarebbero stati del tutto in linea con quello che succede negli altri paesi europei. Così invece sembra che noi abbiamo centinaia e centinaia di casi, mentre gli altri hanno qualche poca unità o decina. No, ma io sarei curioso di capire perché della Francia e della Germania non arrivano notizie, lo dico con massimo rispetto, ma non mi fido. Non arrivano notizie, a me risultano 300 tamponi in Francia contro i 3.000 che ha fatto solo il Veneto, i 2.000 che ha fatto la Lombardia. Voglio dire, facciamo 5.000 tamponi anche in Francia e vediamo se restano 14, ma non è una gara a chi ne ha di più. problema no. È che dai, i tamponi vanno fatti in casi conclamati, in chi ha problemi respiratori e sta male. Se inizi a farli a tutti quelli che sono passati per l'ODI, allora facciamolo anche sulla mononucleosi, magari ce l'ho pure io, non lo so. No. Ma anche perché abbiamo visto che fortunatamente questo è un virus che nelle persone che stanno bene spesso si risolve da solo, quindi alla fine questi tamponi hanno un senso nel momento in cui si vanno a fare su persone che stanno veramente male. Ma guardate qui, adesso io non sono un medico, non ho nessuna garanzia, però diciamo di circuito mediatico qualcosa ci capisco. Purtroppo quando parti con questa immagine è molto più lento il recupero, nel senso che se anche la prossima settimana dicessimo guardate tutto è finito, uno prima di fidarsi, siccome le vacanze non sono un obbligo, non è una cosa di lavoro, inizio, ma per non sapere leggere e scrivere vado in Grecia, vado in... Ma è proprio così, è quello che è successo ultimamente, non so, in Giappone quando è scoppiata la centrale nucleare, cosa che non è minimamente paragonabile a quello che sta succedendo da noi, ma che poi nell'effetto mente delle persone rischia per diventare la stessa cosa, e quindi uno dice vabbè, in Giappone non ci andrò quest'anno, ci vado un'altra volta. Dobbiamo riuscire a togliere questo stigma nei confronti dell'Italia che si è creato in questi giorni e che speriamo si riesca a scardinare quanto prima con una buona campagna di comunicazione appena questa sarà un po' sopita. Allora, qualcuno mi dice forse la gara degli enti locali a bloccare, non lo so, ma era difficile anche fare diversamente. Venerdì eravamo in diretta, quando ti esplodono prima 6, poi 15, tutti in un ospedale o in una zona, scusatemi, vicina, era difficile anche. Poi ho visto anch'io le scuole, ma ripeto, se tutto si dovesse esaurire questa settimana, tutto sommato il danno l'abbiamo fatto, poi magari nell'arco però di un po' di settimane riesci anche a riavere le prenotazioni, non è che tutti stiano prenotando tutti adesso a febbraio, certo che più vai avanti peggio. Restate con noi però Beltratti e Lalli perché oggi è GR24, poi vi chiederò un ultimo commento sui provvedimenti a Lalli e anche invece su un rimbalzo che uno può immaginare magari se il tempo è più stretto, diciamo, nel superamento della crisi. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Flowi, la soluzione DocFlow per gestire le PEC aziendali. Vi ha presentato Focus Economia.